On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Carla Bruni ha detto che le donne non hanno più bisogno del femminismo. Le donne hanno replicato che sono loro a non aver più bisogno di Carla. Se poi smettesse di cantare, sarebbero contenti anche gli uomini. Mi è collato di speranza.